Passaparola di Marco Travaglio di lunedì 2 febbraio 2009. Sommario degli argomenti trattati. Chi potrà richiedere le intercettazioni? Una dritta ai criminali. Stop alle intercettazioni ambientali. Intercettazioni, comma 22. Il governo dell'insicurezza. Ecco l'intero testo. Intercettazioni telefoniche impossibili e crimine libero. Buongiorno a tutti. Oggi parliamo, indovinate un po', di intercettazioni. L'argomento non è nuovo, ma finché ne parlano quelli là bisogna che ne parliamo anche noi, perché stanno cambiando ancora la legge e soprattutto sono riusciti a convincere quasi tutti i giornali che il nuovo testo, con i nuovi emendamenti, sarà molto migliore di quello precedente. E in effetti, a un primo sguardo parrebbe di sì, parrebbe scomparsa la parte più devastante, quella che stilava un elenco di reati per i quali non si potevano più fare intercettazioni. Ora quell'elenco, grazie soprattutto al pressing di Alleanza Nazionale, in particolare della Presidente della Commissione Giustizia della Camera, Giulia Bongiorno, e di una parte della Lega Nord che si è resa conto, molto tardivamente, dei danni devastanti che il primo progetto Alfano infliggeva alla guerra contro la criminalità e quindi alla sicurezza dei cittadini. Bene, questo primo pericolo è stato sventato, ma nel frattempo sono stati inseriti altri paletti che paradossalmente peggiorano addirittura la situazione. In teoria c'è scritto nella legge che si potrà intercettare per tutti i reati con pene superiori ai 5 anni, come è adesso, quindi ritornano a poter essere intercettate le persone indagate o sospettate per tutti i reati di strada, rapine, furti, scippi, spacci di droga, estorsioni, sequestri di persona, compresi i reati dei colletti bianchi come corruzione e reati finanziari. Sapete qual è il problema? È che sulla carta tutto ciò sarà possibile, nei fatti si sono inventati due o tre meccanismi che da soli non significano niente, ma incastrati insieme faranno in modo che sarà quasi impossibile disporre un'intercettazione per i giudici. Chi potrà richiedere le intercettazioni? Mi spiego. Il nuovo testo che è stato presentato alla Commissione Giustizia con gli emendamenti del governo stabilisce sostanzialmente quattro cose. La prima cosa è chi dovrà disporre queste intercettazioni. Oggi il pubblico ministero chiede al GIP l'autorizzazione ad intercettare Tizio e Caio su tutte le loro utenze, casa, cellulari. Il GIP valuta, autorizza l'intercettazione che può durare 15 o 20 giorni al massimo e, se si vuole proseguire, o perché si spera che dicano di più, che comincino a parlare, che proseguano a dire cose interessanti come è stato nel primo periodo, il GIP valuta e, se ritiene che ci siano gli elementi, concede la proroga. Può concedere varie proroghe. Se un'indagine dura 6 mesi è assurdo che le intercettazioni non possano durare 6 mesi. Anche perché molto spesso i reati sono prolungati, durano a lungo. Non c'è nessun criminale che si dia un termine ultimo per un reato. Può essere che la progettazione di un omicidio duri mesi, che la progettazione di una rapina duri mesi, che un sequestro di persona duri anche anni. Si può mettere per iscritto la durata di un'intercettazione? No, perché i criminali non mettono per iscritto la durata del loro reato. L'intercettazione deve durare almeno quanto dura il reato e magari di più, visto che ci sono persone che parlano del reato che hanno commesso molto tempo dopo averlo commesso. Il giudice decide e dà le proroghe necessarie. In futuro non basterà un GIP soltanto, ci vorrà un collegio di 3 giudici per disporre le intercettazioni. Uno dice vabbè, così siamo più garantiti, 6 occhi vedono meglio di 2. Certo, se avessimo 100.000 giudici, ma ne abbiamo 10.000 e abbiamo molti tribunali, 80, quelli piccoli, che hanno meno di 20 magistrati. Il che significa che i magistrati devono fare il pubblico ministero, alcuni fanno solo il pubblico ministero, ovviamente, perché se uno fa il PM non può fare il giudice, può diventarlo cambiando funzione, ma non nello stesso periodo, o il giudice. Quelli che fanno il giudice fanno o i giudici civili o quelli penali. Se uno fa il GIP, giudice per le indagini preliminari, non può fare anche il GUP, cioè non può gestire l'udienza preliminare per il rinvio a giudizio o i riti abbreviati. In un'indagine ci devono essere un giudice che fa il GIP, uno che fa il GUP, i giudici del riesame, che sono 3 e decidono su arresti, arresti domiciliari, sequestri, perquisizioni, i giudici che fanno i processi in composizione collegiale per i reati più gravi e in composizione monocratica per quelli meno gravi. Se ci sono 20 magistrati in tutto il tribunale, come se ne fa a trovare uno che fa il GIP, uno che il GUP, 3 che fanno il riesame, 3 che fanno le udienze e ora addirittura altri 3 al posto di uno che decidono sulle intercettazioni? È evidente che non ce ne sono, ce ne dovrà essere uno che fa più ruoli in commedia. Risultato, diventerà incompatibile perché verrà ricusato. Tu non puoi decidere sulle mie intercettazioni perché mi hai già arrestato. Non puoi decidere sul mio arresto perché mi hai già intercettato. Non puoi decidere sul sequestro delle mie carte perché hai già deciso sulle mie intercettazioni. Non puoi giudicarmi in aula perché eri il mio GIP. Si crea un intrico di incompatibilità per cui si creerà la paralisi completa in quel tribunale e non si riusciranno a trovare 3 giudici che non si siano occupati del caso affinché possano decidere sulle intercettazioni, sugli arresti, sul processo. Naturalmente bisognerebbe avere un ministro, cioè non avere Alfano, dato che il ministro si dovrebbe occupare di assicurare il funzionamento della giustizia, non di cambiare le carriere dei giudici, di attaccare i magistrati. Il ministro deve far funzionare la giustizia, dare le biro, la carta, le fotocopiatrici, le volanti alla polizia giudiziaria, gli uffici, le sedie, far tinteggiare dove è sporco, mettere i puntelli dove crolla il tribunale. Questo deve fare il ministro. Avendo un ministro, invece che questo guarda gingilli, che abbiamo, peraltro seguace di una lunga tradizione di inetti e di ministri ad personam quando non indagati, questo prenderebbe la geografia dei tribunali italiani, prenderebbe quelli piccoli, li cancellerebbe e li accorperebbe almeno nei capoluoghi di provincia, per evitare di avere microtribunali dove i giudici dovrebbero fare tutto e non possono fare niente perché risultano incompatibili. Ma noi non abbiamo questa fortuna, abbiamo questo ministro che va in giro a delirare di cose che non lo riguardano. Una dritta ai criminali. Secondo, la durata. Oggi la durata è quella che decide il GIP. Giustamente, in base alle richieste del pubblico ministero e in base a quello che viene fuori dai primi 15 giorni di intercettazioni, si decide se andare avanti o se fermarle. A volte il GIP sbaglia, per esempio Guariniello quando mise sotto intercettazione i dirigenti della Juventus nello scandalo di Calciopoli parte torinese nell'estate. se non ricordo male, del 2004, scoprì che Moggi chiamava il designatore degli arbitri Pairetto per scegliersi gli arbitri addirittura nelle partite del precampionato. Voglio l'arbitro Pieri per il trofeo Luigi Berlusconi. La domenica Pairetto gli metteva l'arbitro Pieri. Persino per le amichevoli, capite, con telefonate così promettenti, quando iniziava il campionato chissà cosa si sarebbe trovato, invece Guariniello, pubblico ministero, incappò in un jeep che non aveva capito, colto lo spessore della vicenda forse perché riguardava il calcio e pensava fosse una burletta, sta di fatto che non gli concesse la proroga all'intercettazione. Guariniello sul più bello dovette fermarsi. Fortuna che la procura di Napoli, senza sapere niente di quello che stava facendo Guariniello, seguendo la pista della GEA, la società dei procuratori della famiglia Moggi, Lippi, eccetera, aveva attaccato le microspie e i telefonini più o meno delle stesse persone, e anche di più, che Torino aveva dovuto staccare. Proseguirono le intercettazioni, anche se gli uni non sapevano degli altri. Riuscirono a beccare tutta la stagione del campionato. Per tutto il campionato sentirono che Moggi, durante il campionato, faceva anche di più che per le amichevoli, dettava le griglie preliminari per il sorteggio all'altro designatore, Bergamo, e combinava tutto quello che tutti abbiamo saputo 3 anni fa e che adesso stanno cercando di farci dimenticare invitando Moggi da tutte le parti a raccontar palle. In ogni caso, il processo è in corso a Napoli. È ovvio che se tu trucchi un campionato manipolando le designazioni arbitrali, condizionando dirigenti, arbitri, giornalisti, eccetera, devi essere intercettato per tutto il campionato e non è colpa nostra se dura 9 mesi. Con la nuova legge i magistrati avrebbero dovuto staccare le microspie a metà, anzi molto prima della metà del campionato, perché la nuova legge stabilisce che si potrà intercettare fino a un massimo di 45 giorni e si potrà avere solo nei casi estremi un'ultima proroga fino a 60 giorni. L'intercettazione caschi il mondo non può durare più di 2 mesi, salvo casi di mafia e terrorismo. Cosa te ne fai di 2 mesi di intercettazioni quando devi scoprire quello che succede per un intero campionato? Cosa te ne fai di 2 mesi di intercettazioni quando magari c'è un sequestro di persona che dura 6 mesi? Metti che al 59esimo giorno i sequestratori che sei riuscito a intercettare stanno parlando di dov'è il nascondiglio del bambino tenuto in ostaggio, invece di proseguire per capire dove lo tengono devi staccare e andartene. Voi capite che non solo è una legge assurda, ma è una legge criminogena nel senso che avverte il criminale di quanti giorni deve starsi zitto prima di cominciare a parlare, stai zitto 2 mesi poi di quello che vuoi tanto sei sicuro che non sarai più intercettato. Oppure uno sente al 59esimo giorno, domani lo ammazziamo, fra una settimana lo ammazziamo, fra un mese lo ammazziamo, ho trovato quello che dobbiamo ammazzare, ho trovato la ragazza che dobbiamo violentare. Tu cosa fai? Stacchi tutto e te ne vai? No, insisti per cercare di capire chi è la ragazza, chi è il tizio destinato ad essere ammazzato per cercare di prevenire ed evitare. Quante volte l'intercettazione evita l'omicidio, lo sai prima che stanno andando ad ammazzare qualcuno, invece di metterci lui fai trovare i poliziotti così quando arrivano i killer vengono arrestati. quante volte Genchi, il famigerato Genchi, è riuscito a far sventare delitti o a far scoprire persone che hanno commesso delitti proprio con l'incrocio intelligente fra tabulati e intercettazioni? Niente, qui caschi il mondo al 60° giorno, devi staccare e andare via. Speriamo che la facciano così questa legge, perché se la fanno così abbiamo la matematica certezza che è incostituzionale. In un paese dove c'è l'obbligatorietà dell'azione penale e soprattutto dove vige il principio della non dispersione della prova, immaginate se la Corte Costituzionale, a meno che non cambino, anche quella potrà mai consentire una legge che ti impone sul più bello di rinunciare ad acquisire le prove, una cosa folle. Speriamo che nessuno faccia emendamenti migliorativi, perché peggio è questa legge, più abbiamo speranze che venga frantumata e incenerita dalla Corte Costituzionale. L'unica speranza è questa, che continuino a scrivere leggi coi piedi come adesso,